è un atteggiamento misero, perché non hanno neanche il coraggio delle loro azioni, nel senso che a un certo punto sono allontanati tutti dall'aula per far mancare il numero legale. Quindi insomma è stata una sorta di boicottaggio. Sì, ma è neanche il coraggio di quello che si vuole pretendere di fare. Il problema è che diviene litterizia, si vede, a dire la parola antifascista. Eppure viviamo insomma in una repubblica che è nata dall'antifascismo. Secondo lei, come dire, non, la giunta e la maggioranza non si riconosce nell'antifascismo? Il problema è, visti i comportamenti, direi di sì. Tenga conto che dietro le spalle del sindaco c'è il gonfalone della città che è decorato di medaglia d'oro a valor militare per l'attività della guerra di liberazione, che tradotto in numeri significa 1863 fucilati o caduti in combattimento delle forze partigiane di liberazione e 2250 deportati morti. Quindi non è che diciamo che quello che hanno alle spalle sia un premio perché si fa il pesto più buono, eh. E di questo dovrebbero ricordarsi, ma purtroppo credo che non sia possibile, perché sono prigionieri dei diktat di un gruppo di Fratelli d'Italia. Io so, pare, leggendo i giornali, che Meloni, la Giorgia Meloni, aveva vietato di votare qualunque cosa su questo argomento. La presenza neofascista a Genova è forte? C'è stato un crescendo, nel senso che noi negli anni scorsi non avevamo queste situazioni. Poi c'è stato un arrivo, apertura di qualche sede, risposte della città molto partecipate, e dopodiché purtroppo c'è stato un escalation con un accoltellamento di un ragazzo pochi giorni fa in una piazza del centro. E di fronte a questi fatti la risposta è sempre quella: sono goliardate, sono quattro ragazzi, lo sminuire, e non si ci rende conto che il fatto di tacere si è consapevolmente o consapevolmente complici di quello che sta accadendo. Voi reagirete in qualche modo a questa mancata approvazione? Sì, intanto c'è il continuo, perché mancando il numero legale l'ordine del giorno si riapre il prossimo martedì con lo stesso questione, e quindi martedì rifaremo compagnia ai consiglieri comunali ricordandogli la realtà del nostro paese su cosa fondata, che era la Costituzione, il presidente Mattarella è l'esatto contrario del fascismo, quindi è antifascista.